soldi può comprare la pace. L'amore non ha prezzo, non ha coordinate. Le promesse non han firme, non vanno girate. E sembra che ormai sia un miraggio da secoli. Sembra che sto viaggio ci renda più deboli. Nella corsa questo buio ci rallenta. La luce che brillava su di noi si è spenta. Ieri speranza era uguale a salvezza. La gente aveva fede, insegnava saggezza. Oggi la paura non calma. Rimane solo un sogno che non vede mai l'alba. Il vero vive dentro l'oscuro e la triste realtà tra presente e futuro. Eppure c'è qualcuno che ci aspetta. La sua voce è la tua luce finché grida vendetta. Voglio un mondo che cambia. Vogliamo la libertà. Voglio un mondo che cambia. E adesso che il sipario è calato in ognuno di noi, puoi sentirti libero e fare quello che vuoi, ma ascolta. La vera libertà è dopo avere fatto i conti con ogni tua colpa. Gli uomini seguono un Giuda che si proclama un Dio e non chiede mai scusa. Promette a tutti un mondo migliore, ma la ottiene con la guerra perché in fondo è un traditore. Ieri pregare univa la gente, la fede aveva un credo e ci dava più forza. Oggi ormai non serve più a niente, è medicina per i pazzi per un'altra lotta. E in alto non ci sentono più, ci mettono catene, ci tengono giù. E la vita adesso non ha più nome, no. È il destino senza fine della mia generazione. Voglio un mondo che cambia. Vogliamo la libertà. Voglio un mondo che cambia. La pace. Vogliamo la libertà per un mondo che cambia. Vogliamo la libertà per la vita, per chi vuole amore, per chi cerca il vero dentro tutte le parole.